Abbiamo visto nella scorsa lezione che il termine nes, che significa comunemente, si usa la traduzione di miracolo, nes vuol dire anche uno stendardo, qualcosa che viene elevato su in alto, e che indica, è legato anche alla parola nisayon. Nisayon sarebbe la prova alla quale viene potesse essere sottomessa qualsiasi persona, e ci sta dicendo che la prova stessa fa sì che la persona abbia la possibilità di elevarsi. E questo adesso approfondiamo nel secondo capitolo, Ot Bet. Beura Inyan, per spiegare questo concetto, in Eketiv è scritto Chi menasseh, è scritto nella Torah, Chi menasseh havaya Elokechem etchem ladat, il Signore Hashem Elokechem vi mette alla prova per sapere, ladat, per sapere se siete vicini e se seguite, se amate, se avete timore del Signore vostro Dio. Così dice la Torah, il Signore vi mette alla prova in modo che Lui possa sapere se voi siete attaccati a Lui. Ok? Però come vedete, qui la citazione conclude con la parola la da'at, per sapere, perché si vuole proporre un altro significato in questo versetto, non letterale, e cioè il Signore vi mette alla prova la da'at, per farvi arrivare alla consapevolezza, alla conoscenza. Come arriviamo noi al livello di da'at, profonda conoscenza, legame con HaKadosh Baruch Hu? Attraverso la prova. Ok? Quindi questo è un senso più allusivo del versetto, non è il senso letterale. Dalie dei anisionot, attraverso le prove baim libchinat dat, si giunge al livello di dat. Cosa significa? Vehainu, questo vuol dire, dalie dei shemit gabber, tramite il superare al kola devarim ammonim umeakvim meavodat Hashem itbarach, superando tutte le problematiche che fungono da ostacoli dal servire il Signore, Betorah utfilah, attraverso la Torah e la Tfilah, e Bekiyum mitzvot, e l'atto delle mitzvot. Superando questi ostacoli, quindi superando le prove, al yedeze magim la da'at et avaye, tramite questo lavoro di superare le prove, si arriva ad un livello di conoscenza, di consapevolezza, di legame con Hashem, che è rappresentato nel nome tetragramma, Havaya, che è al di là del nome Elohim. E ora spieghiamo la differenza. De Elohim, quando si tratta che parliamo di HaKadosh Baruch Hu con il nome Elohim, quindi come lui si esprime attraverso la creazione, infatti la parola Elohim, come dice subito, Begimatria Hateva, ha lo stesso valore numerico della parola Hateva, e cioè la natura, e la natura chiaramente è sottomessa alle regole della natura che abbiamo lo spazio, abbiamo il tempo, Vealpi Hateva, e secondo la natura, Hare Asman Hu Beseder De Avar Hove Veatid, il tempo funziona secondo un ordine cronologico di passato, presente e futuro. Haya Hove Veyiyeh, ciò che è stato, ciò che è e ciò che sarà. Valiedei anisyonot, ma tramite le prove alle quali veniamo sottoposti, magiim, superandole, potremmo arrivare, giungere a un livello più elevato, cioè la da'at et havaya. Havaya, quando si usa il nome tetragramma, si indica haya hove veyiyeh che echad. Il nome tetragramma vuole indicare uno stato di essere spirituale che non è limitato dalle regole della natura, dove passato, presente e futuro è tutt'uno. Shehu lemala minateva, e cioè che si rappresenta con il nome tetragramma, avaya, qualcosa che è al di là delle regole della natura. Com'è che la prova ha questo potere, o il superare la prova? Cosa è nascosto nella prova che fa sì che superandola si può giungere a qualcosa di così profondo? Allora ora spiega. Via 2a è risaputo nelle opere della Kabbalah e della Hasidut, che a Nisayon, la prova, hu, cosa è la prova nel senso più spirituale? Cioè noi vediamo una prova e ci sembra un problema, un ostacolo. E visto che lo associamo con un problema, lo consideriamo un male. C'è un male che noi vorremmo evitare. C'è qualcosa di negativo nella prova che noi cerchiamo di superare quella cosa. Ma nel senso più profondo, la prova deriva da qualcosa in realtà di elevato, che però per poter essere rivelato serve una forza maggiore rispetto a quello che servirebbe normalmente e quindi viene nascosta nella prova, nella difficoltà. Ma il punto non è la difficoltà, è quello che c'è dentro, che per arrivarci bisogna approfondire, bisogna a volte anche faticare. Allora, come si esprime questa cosa nei termini cabalistici? Vediamo subito. Via dua shea nisayon hu, il senso profondo della prova è, shea nitzuza elochi, anitzotza elochi, il raggio, la scintilla divina, humustar venelam biyoter. La prova rappresenta qualcosa in cui la scintilla del divino, che noi crediamo che in ogni cosa c'è una scintilla del divino, c'è una presenza in qualche maniera, il fatto stesso che esista indica che è voluto da Kadosh Baruch Hu, quindi che è una sua scintilla, per così dire, dà vita o dà esistenza a quella cosa. Ma a volte è più evidente, a volte meno evidente. Allora, quando si tratta di una prova, significa che quella scintilla è molto, molto nascosta. Mustar, nascosta, venelam, è quasi, quasi impossibile percepire, uke aklala yadua, come la regola generale ben risaputa, de anitzotzot shenaflu lemata yoter, le scintille che sono per così detto cadute, cioè sono venute in maniera più bassa, quindi in elementi più base della creazione, arei shorshanu lemala yoter, la loro radice al contrario è più elevata. Più alta è la radice, più in basso cade il frutto, diciamo così. Come si fa l'esempio di una muraglia di pietre, ukmo kotel shelavanim, un muro di pietre. Se dovesse cadere questo muro, se dovessero cadere delle pietre dal muro, ineha even sheberosha kotel, la pietra che è in alto, in cima al muro, che se nofel, quando cade, are un ofel merachok yoter, cade più distante dal muro, mina kotel, mikemoa even shubetachtita kotel, rispetto alla pietra che invece è più in basso nel muro, quando cade più vicino, de che se un ofel, qualora cadesse, are ube samuch e la kotel, più vicino alla muraglia. Perché facciamo questo esempio del muro e le pietre? Per un motivo molto preciso che adesso spiegheremo. Perché nella Kabbalah si usa l'esempio delle pietre per spiegare il significato delle lettere. Vediamo. Vine ha'otiyot nikraim avanim. Le lettere del Aleph Bet vengono chiamate nella Kabbalah avanim, lettere. Pietre. Uke Moshe Neemar be Sefer Yetzirah. In una delle più antiche opere della Kabbalah, il Sefer Yetzirah è scritto: Shtei avanim bonot shtei batim. Si usa la metafora di pietre per parlare di lettere e si dice: due pietre costruiscono due case. Per pietre si intende lettere e per case si intende parole. Allora, quando abbiamo due lettere, possiamo costruire due case, cioè due parole, come adesso faremo l'esempio. De Keshem Sheabait Nivna Meavanim, così come una casa viene costruita da molte pietre messe insieme, e a secondo di quanti siano questi, quante siano le pietre, che Firi Buya Avanim, e secondo la quantità Vesidram e il modo in cui vengono poste le pietre. Kenyi ye godelabait, così sarà la grandezza delle dimensioni della casa. Be orko, nella sua lunghezza, rohbo, larghezza e govho, altezza. Fechenhu beteva, così è anche in una parola. Asher lefi, rova otiocebo, secondo la quantità delle lettere in esso presente, in essa presenti, vesidran bezulefehen, e anche l'ordine delle lettere, ovviamente cambia il modo che sono poste, kenyi ye perusha tevahi, in base a questo cambierà e ci sarà il significato di quella parola. E quando dice nel Sefer Yetzirah, bet, due lettere, shtei otiyot, bonot shtei batim, creano, costruiscono due case, per esempio, che mo Aleph e Bet, se prendessimo le due lettere Aleph Bet, sono due lettere, no? Bet otiot. E costruiscono due case, due parole, ubonot shtei batim em shnei tzerufim, costruiscono due case, cioè hanno la possibilità di creare due parole secondo due combinazioni, tzerufim, combinazioni di lettere, di ordine delle lettere diverse. Le due parole in questo caso sarebbero Av e Ba. Av significa padre e Ba significa viene. Se avessimo tre lettere, Ushlosha otiot, bonot, shishabatim, tre lettere costruirebbero, tra virgolette, sei case. E qui facciamo un altro esempio, e vedremo perché facciamo proprio questo esempio. Kemo otiot hei tzadi resh. Se prendessimo queste tre lettere, potremmo formare sei parole. Però, yeshlo shisha tzirufim, ci sono sei parole, effettivamente, quindi sei combinazioni di come mettere l'ordine di queste lettere, ma abbiamo, dice qui adesso il Rebbe Yosef Yitzchak, una tradizione che è stata trasmessa fin dai tempi del Baal Shem Tov, a nome del Baal Shem Tov, riguardo a queste sei parole. Veyadua è risaputo, Bakabalah, in una trasmissione, in una tradizione, che è stata ricevuta Rabbi Mipi Rabbi, cioè da Rebbe a Rebbe, Mimoreno a Baal Shem Tov Nishmato Eden, da fino ad arrivare al Baal Shem Tov, de Bezeruf Ze, che in questo caso specifico di queste tre lettere, Yeshbo Gimel Ikarim ve Gimel Mistafim, è vero che ci sono sei parole, ma tre sono parole principali e le altre tre derivano dalle prime tre. In altre parole, sono sei parole, ma tre concetti, che si dividono in due, i principali e le conseguenze di queste principali. Mistafim significa conseguono da questo. Quali sono le principali di queste tre lettere? Haikarim, quelle più importanti, hem, Hatzar, Ratza e Zohar. Quindi la combinazione delle lettere iniziando con la Hei, Tzadik Resh, poi la Resh Tzadik Hei e poi la Tzadik Hei Resh. Le altre tre derivano da queste tre. Ora vediamo il motivo. Ve'amar morenu a Baal Shem Tov Nishmato Eden, disse il Baal Shem Tov per spiegare questa cosa. Te'aliedei ha'otiyot de Torah utfila, in generale, quando parliamo delle lettere che formano le parole della Torah e della Tefila, shehu inyan bo el hateva, viene espresso ciò che è stato detto a Noach. A Noach è stato detto bo el hateva, vieni dentro l'arca. Kadosh Baruch Hu ha detto a Noach, entra dentro l'arca, quando era già iniziato il diluvio. Noach ancora non era entrato e c'è scritto che Kadosh Baruch Hu disse a Noach, entra nell'arca. Come si dice arca? Teva. Però teva significa anche parola, come stiamo vedendo anche qui nel nostro testo. Allora, il Baal Shem Tov disse, oltre al significato semplice vieni e entra nell'arca, c'è qui un'allusione che viene data, un'indicazione a tutti noi, è che come a Kadosh Baruch Hu ci dicesse entrate nelle parole, nella Teva, nella parola. Quale parole? Entrate dentro le parole della Torah e le parole della Tefila. Ubo e la Teva hu haknissa, sarebbe l'entrare, cioè il mettersi dentro con il cuore, betocha otioce la Torah utfila. E qui lo esprime in Yiddish, lernen mitachayus und davenen mitachayus, cioè studiare la Torah con vitalità, chiyut, con vita, con ardore, ok? Con calore, con impegno e pregare anche con una chiyut, con vitalità. E quell'espressione di vitalità indica che ci vuoi davvero stare, che non lo stai facendo per automatismo o perché sei stato forzato a farlo, ma quando fai una cosa io posso vedere, wow, questa persona è davvero dentro le parole della Torah che sta studiando, oppure vedo che sta davvero dentro le parole della Tefilah che sta recitando, capisco che lo vuole fare. Non lo sta facendo perché qualcuno gliel'ha forzato o perché è stato abituato così ed è una cosa automatica. Come si dice vuole in ebraico? Rotze. Qui abbiamo la prima delle tre importanti che abbiamo detto, Razza, Resh, Tzadik, Hei. Ok? Allora, quando si entra dentro la Teva, dentro la parola, abbiamo prima cosa Razza, Rezze, la volontà, Arazzon, Achayut, More, Alpnimiut, Arazzon. Questa vitalità che lui esprime indica che ci vuole stare davvero. Su Inyan Razza. Se una persona si esprime così nella sua preghiera, nella sua tefilà, perché ci vuole stare, allora c'è la seconda combinazione di lettere, sempre dalle stesse lettere, in aliedezena set zohar, la teva. Si trasforma in zohar. Zohar significa illuminazione, una finestra o una pietra preziosa, secondo le varie interpretazioni, che erano la luce nella teva, che rappresentavano l'inserimento di una grande luce, illuminazione. Quindi se c'è la volontà, c'è quella vitalità, c'è illuminazione, e questa illuminazione cosa fa? Trasforma la tzara. Sarà la sofferenza del Hazar. Hazar, che è la prima delle tre che abbiamo detto, le importanti di Tzadik Reshe, Hazar, colui che vuol far soffrire. E la tzara, l'altra combinazione, è la sofferenza. Quindi la trasformazione della prova, di cui dicevamo prima, della sofferenza in qualcosa di illuminato, è tutto legato alle stesse tre lettere. Prima razza, prima ci deve essere la profonda volontà in quello che si fa nel bene, questo diventa zohar, un'illuminazione, e questo fa trasformare hazar e tzara in qualcosa di buono. Cioè modifica la si trasforma la tzara in zohar, in qualcosa che illumina. Quindi tzara è sofferenza. Sì. Zohar abbiamo detto illuminazione. Come, sì, però azar. Azar e tzara uguale. Sì, azar è colui che e fa la tzara. La trasforma in zohar che è luce, quindi è esattamente. Quindi c'è la volontà che porta all'illuminazione, che in quello stesso che a sua volta che in quello stesso momento in cui trasforma la tzara, già trasformato. Bravissimo. Che si rilega poi al concetto iniziale, quella della sofferenza, che tanto adesso è bravissimo, ecco qua. Debe koach ze me'aprim et hatzara shel hatzara tzorer rachmana litzlan litzohar. Si trasforma la tzara del tzorer, cioè di chi vuol far male, che può essere un'indicazione generale del Satan, degli Yetzerara, de mina tzara e le zohar, lo si trasforma in un'illuminazione. Ve al derech dichtive, simile a quanto è scritto nel profeta, ve et tzara hi le Yaakov, c'è un momento di tzara, di sofferenza per Giacobbe, umimena yivashea, ma sarà salvato Yaakov, Israele, da quel momento di difficoltà, di tzara. Ora, se guardiamo l'esattezza delle parole che il versetto usa, è un momento di tzara, umimena e dalla tzara stessa verrà la salvezza. Cioè il senso letterale è sarà salvato dalla sofferenza. Il senso più profondo è che dalla stessa sofferenza, mimena, da essa stessa, dalla sofferenza stessa, esce fuori la soluzione. Perché tzara, zohar, e le stesse lettere, la stessa sofferenza trasformata è essa stessa un'illuminazione. Demina tzara hahi tezelo od Yeshua, che proprio dalla sofferenza stessa potrà derivare una salvezza. Zeu inyan zohar, e questo è il senso di appunto zohar, che significa qualcosa shemeir or rav, che illumina con una grande e forte illuminazione. E da qui la parola tzahoraim, come si dice in ebraico pomeriggio. Tzahoraim, in realtà mezzogiorno già si chiama tzahoraim, e il pomeriggio si dice Achara Tzahoraim, dopo il Tzahoraim, perché il momento più illuminato si chiama Tzahoraim, dalla parola Tzohar. Che moba Tzahoraim, Sheutokev zrichat Hashemesh, che è il momento della più forte illuminazione del sole. Ken ketiv, e appunto è anche scritto, ve'ohavav, e coloro che vogliono bene ad Hashem, che lo amano, ketzet Hashemesh bigvurato, escono fuori come quando fuoriesce il sole nel suo momento di più grande forza. Quindi si lega sempre a Tzoraim, a Zohar, e Zohar viene dalla Tzara. L'illuminazione del Zohar viene proprio dalla Tzara, che appunto illuminando diventa luce a causa di cosa? Razza. A causa di razza. Quando c'è il razzon, quando ci metti la volontà di superare la prova, di approfondire, di entrare nelle parole della Torah e della Tefilah con razzon, con tua volontà e quindi con chayut, con grande vitalità e energia, allora puoi superare la tzara in Zohar, e cioè la sofferenza in illuminazione. Però prima è sofferenza, poi volontà, quindi razzon, e poi alla fine Zohar. Sì, oppure come qui ha detto prima, razza, prima c'è il razzon, e questo trasforma il tzara in Zohar. Sì, certo. Sì, no, potrebbe essere che c'è già una tzara prima. C'è una sofferenza perché uno entra, comunque sia, sì. Più cose. Ma la sofferenza che alla fine è quella che può portare l'illuminazione, ma sì, può essere anche vista come in vari concetti si ritorna che i momenti più bassi sono quelli che proprio sì, per sofferenza non si deve allora per sofferenza non deve essere inteso necessariamente una tragedia mai sia un ostacolo possibile, una sofferenza può anche essere quando uno sta pregando e ha pensieri che lo disturbano, lo distraggono, anche questo può rientrare e nella tzara, avvertendo questo disturbo, che lì lui deve fare più razzone, deve sforzare, esattamente questo, in questo senso, deve trovare la forza perché si accorge. Sì, più o meno tutto quanto il ciclo, no? Sì, ma una volta che si è chiuso il ciclo, bene, quindi c'è lì la illuminazione, la sofferenza stessa c'è, cessa, oppure quella è una cosa probabilmente che... ce ne sarà un'altra. Cioè, questa è la storia della nostra vita. Quando se la sofferenza, facciamo l'esempio di una sofferenza non mai sia tragica, no? Una distrazione nella tefilà. Quando tu superi quella e illumini, e illumini te stesso, non vuol dire che domani non avrai un'altra distrazione nella tefilà. Ma anche dopo no, certo, assolutamente. Dopo 3 secondi. Prego. No, adesso. No. Leone, cosa volevi dire? Non puoi lasciarci una lezione senza... Non puoi, guarda, io non ce la faccio. Cioè, dopo domani parto e sto così. Colpa te, Marico. Ringraziato Dio, c'era arrivato, era solo per esperienza personale. Ah, sì? Qualche tempo fa. Per esperienza personale, colla a cavot. No, per te, mi succedono delle cose, dico, ma perché Dio mi succedono tutte queste cose? Dico, forse... Insomma, così pensando c'ero... Hai approfondito e hai illuminato. Chazak! No, vabbè. Cioè, quindi la